dei tuoi bei sguardi, o cara, indegno è troppo questo rustico tetto. Illustre detto, la sua gentile abitatrice irrende. Anche qui vieni a tormentarmi, o donna. Mio re, non è mia colpa, questo è il povero mio soggiorno antico. Più non mi dir tuo re, ma tuo nemico. Se i prieghi miei del tuo favor son degni, e che non può costanza su questo cor, concedi che più dal fianco mio costei non parta. Nella reggia, nei boschi, ovunque io vada, mi sia compagna o serva. A te serva costei, qual sia te noto. Se mi rapagni, avessi al volto. È questa quella un tempo mia moglie, che amai per mia sciagura, alzata al trono perché ne fosse eterna macchia. Oddio, Grisetta! Ah, più non dirlo, anche al mio labbro venne il nome aborrito, eppur lo tacque, più ignobil moglie. Più fedele non